Me li vedo telefonare ai comuni, prendere gli appuntamenti, farsi una bella doccia, vestirsi bene e presentarsi agli assessori. Me li vedo mentre montano un fornelletto elettrico per avere sempre la possibilità di farsi un caffè. E con una branda piena di fogli per quando sono troppo stanchi anche per tornare a casa. Il piccolo problema è che l'obiettivo che si sono prefissati è innovare il settore pubblico in Italia. E in questo il fattore eroico sostituisce quello romantico. Questi sono degli eroi. Il loro è un triplo salto mortale. Innovare il primo, in Italia il secondo, l'amministrazione pubblica il terzo. Quando si pensa all'Italia, soprattutto da fuori, si pensa sempre alla luce dell'Italia, al mare, al clima, alla cucina, agli uliveti, la Torre di Pisa, il Colosseo. E quando si pensa alla pubblica amministrazione, soprattutto all'interno dell'Italia, si pensa a cose tipo decidere se a carnevale sfileranno prima le maschere a piedi o i carri allegorici, o quale carro passa per primo, oppure deliberare se il corso potatura alberi da frutto può mettersi d'accordo per dividere la sala a disposizione con la banda che è rimasta senza sede da quando si è rotto il riscaldamento. E le innovazioni più visibili negli ultimi anni sono le rotonde alla francese al posto dei semafori, i lampioni con le lampade a risparmio energetico e quei cartelloni luminosi, quelli che se vai troppo veloce ti indicano la velocità in rosso e se rallenti in verde. Questi tre giovani dall'estero sono tornati in Italia, in completa controtendenza. Hanno rinunciato a lavorare per qualche grossa multinazionale per provarci, per provare a fare qualcosa di difficile e di difficilmente realizzabile. Qualcosa che però non richiede solo fatica e sacrificio, ma si nutre specialmente di passione. E non avrebbero potuto fare altrimenti. E lo stanno facendo. Le possibilità che incontriamo nella vita non sono per tutti le stesse, ma tutti abbiamo il dovere, nei confronti di noi stessi almeno, di provarci. Ecco, loro ci hanno provato. Messaggi diametralmente opposti arrivano al 349-238-6666. Innanzitutto non, quasi nessuno dà una sua idea, un suo consiglio su come innovare questo paese, ma è anche complicato immaginarlo, a meno che non si faccia quel lavoro lì, ed è per questo che dopo abbiamo Luca Tremolada in studio. Però per farvi capire, due esempi di messaggi opposti. Per rinnovare bisogna innanzitutto eliminare i politici corrotti e i ladri. Ciao Adriano. E poi un altro. Caro Matteo, per innovare, per prima cosa, 30 e quarantenni italiani devono iniziare a prendersi le proprie responsabilità e non cercare alibi. Politica, burocrazia, eccetera, eccetera, eccetera. 349-238-6666. Qualcuno che le sue responsabilità se le prese c'è, sono tre ragazzi, uno di loro l'autore della storia, Gilberto, è qui al telefono. Pronto Gilberto? Ciao a tutti. Come ciao. Stai? Molto bene, grazie. Dimmi che sei nel garage, ti prego. Sono di fianco al garage, sì, ci siamo quasi. Avete una sede, avete un posto dove stare? E lavoriamo da casa, non ci possiamo permettere il lusso di un ufficio, quindi abbiamo detto se dobbiamo farlo facciamolo comodi, e quindi stiamo a casa, andiamo in biblioteca, andiamo nei parchi, dove capita. Mi ripete le vostre età più o meno, Gilberto? Allora, io ho 25 anni, Jason 26, Matteo 26 e Jacopo 29. Ok, quindi siete ufficialmente under 30. Sì, esatto. È già ufficialmente un lavoro questo? Sì, abbiamo formato la società nel novembre 2011, quindi ho appena compiuto 24 anni, e da allora il nostro lavoro a tempo pieno, piene energie, quindi siamo dedicati a fare questo, sì. E riesce ad essere sostenibile questa attività? Cioè la società fattura degli utili? Abbiamo chiuso il primo bilancio in peggio, che per noi è stato un grande risultato. Ovviamente a livello di soddisfazione economica siamo ancora a livelli molto molto molto bassi, però nel senso la passione e tutto il resto che abbiamo, secondo noi, sta bilanciando questo fattore. Insomma, ci credete di fatto? Sì, ci crediamo tanto. Prima di andare nel cuore della questione, che mi spieghi esattamente se è comprensibile che cos'è, che fate, di cosa vi occupate, mi dici invece, attorno a te, attorno a voi, i vostri coetanei, quanti hanno fatto la vostra scelta e come vi guardano quando ne parlate? La la nostra scelta l'hanno fatta in pochi, secondo me troppo pochi per tanti motivi, perché le alternative ad oggi non sono così entusiasmanti, perché tutto quello che se ne può guadagnare, oltre al fattore economico, è veramente qualcosa di impagabile, sia a livello di esperienza, soddisfazione personale, un senso di essere in gioco e fare quello che si ritiene più giusto. Quindi secondo me siamo ancora troppo pochi. Ecco, io invito tutti a provarci. Tu vivi coi tuoi, immagino, giusto? Io sì. Cosa dicono i tuoi genitori? Sono spaventati? Che lavoro fanno loro, ad esempio? Mio padre è un libero professionista, mia mamma invece lavora in comune, quindi ho i due... Sei esattamente nel mezzo, insomma, abbiamo capito perché hai fatto questa scelta. Esatto, esatto. Quindi ho cercato di unire le due cose, poi in realtà viaggiamo, abbiamo studiato all'estero, quindi... In realtà siamo parcheggiati a casa perché al momento le risorse economiche non ci permettono altro, però siamo fiduciosi che presto potremo, diciamo, prendere la nostra strada in maniera ancora più netta. Come se fossi un bambino di 6 anni, Gilberto, che cosa fate? Allora, aiutiamo i comuni a risolvere i problemi del cittadino, quindi in maniera molto semplice i cittadini sul territorio riscontrano tante problematiche, alcuni di loro lo informano al comune, quindi telefonano, vanno agli sportelli a parlarne, alcuni non lo fanno perché non hanno tempo, non ne hanno voglia, non hanno fiducia che il comune darà risposta al loro problema. Noi cerchiamo di ridurre questa distanza facilitando il cittadino nella segnalazione, ma soprattutto aiutando il comune a gestire la segnalazione, gestire i lavori, risolvere la problematica e alla fine dire al cittadino: te l'ho risolto. Ok, però di fatto voi fate un software? È una piattaforma, esatto, una piattaforma web con le relative applicazioni per cellulare, quindi tutto molto moderno. Quanti comuni ce l'hanno? Quanti comuni la stanno usando adesso? Siamo una ventina di comuni, quindi stanno crescendo velocemente. Siamo partiti con un paio di comuni, poi abbiamo avuto un periodo di testing con loro, abbiamo fatto sviluppi, abbiamo migliorato la piattaforma, ora siamo pronti per fare grandi numeri e per aiutare sempre più comuni. Avete un business plan, ovviamente? Sì, cioè, il progetto qual è? Tra l'anno prossimo un tot di fatturato, 2 anni dopo triplicarlo e tra 3 anni vendere la società a Google? Vorremmo crescere e tenerla, perché secondo noi è un tema troppo importante per poterlo dare a qualcuno a cui non interessa veramente e non abbia la passione giusta, quindi ci piacerebbe, lo vediamo un po' come il nostro bambino di 6 anni, giustamente. Mi dici qual è la giunta più illuminata che avete incontrato? Le giunte più illuminate, allora, a livello, diciamo, di nomi conosciuti, Trieste è stato il primo comune grande che ci ha dato fiducia e hanno avuto tanto tanto coraggio, e noi ancora oggi li ringraziamo. E Trieste quindi sta usando la vostra piattaforma? Sì, esatto, okay. Ormai da diversi mesi abbiamo lavorato bene insieme. A livello, diciamo, di amministrazioni ancora più piccole ce ne sono tante, c'è il comune di Pieve di Cento, Monteveglio, Cornate d'Adda, Facili da raggiungere, immagino. Sì, esatto, okay. È più difficile per noi farci conoscere a loro perché sono tanti e sono sparsi, però ci stanno dando soddisfazioni. Gilberto, l'ultima cosa, poi ti saluto. Te lo dice uno che ha 38 anni quest'anno e tiene la barba lunga, cioè io mi faccio crescere la barba perché altrimenti la gente mi guarda ancora come un ragazzino. Allora cerco di dimostrare che ho quasi 40 anni, no? Quando vado a parlare di lavoro. Com'è difficile a 25-26 anni in Italia essere presi sul serio? Era tanto difficile l'anno scorso quando abbiamo iniziato, quando ancora non ci conosceva nessuno. Ad oggi, per fortuna, conta più quello che stiamo facendo che chi siamo, quanti anni abbiamo. C'è voluto un anno e mezzo, però per fortuna le cose stanno un po' cambiando. Gilberto, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a tutti, ciao. Ciao, buona ancora. Giornata, grazie. Voi siete qui. È molto difficile raccontare la foto di oggi, non perché sia particolarmente complicata, ma perché se andate sul sito di Radio 24 o alla nostra pagina Voi siete qui, se lo fate per vedere le foto che vi racconto, ci sono 4 ragazzi nella foto. E Gilberto, autore della storia e protagonista della puntata, è coperto dalle etichette Ascolta e Condividi. Quindi Gilberto, adesso noi troviamo il modo per farti spostare un pochettino la faccia dalla foto, però diciamo il clima è quello di 4 ragazzi giovani che hanno addosso dei vestiti che non gli assomigliano, sono eleganti come se stessero andando a fare una presentazione in comune. Ginepraio, sostantivo maschile, macchia di ginepri, sterpaio, Figurato, faccenda intricata, di difficile soluzione. Etimo, derivato di ginepro. Data, secolo XVI. 349-238-6666. Si parla di innovazione. Se avete un modo o un'idea per innovare questo paese, abbiamo quel numero lì, 349-238-6666. Noi però non potevamo esimerci dal andare a pescare praticamente al Luca, al piano di sopra eri, giusto? Sì. Uno o due piani sopra? Uno. Direttamente dalla redazione di Nova, Luca Tremolada, che sicuramente conoscete, ve lo ricordate. Ti sto twittando, ti dico solo che sono mentre tu parli, sì? E ti twitto, che è una delle cosa che mi diverte più al mondo, anche perché ti metti in imbarazzo se ti twitto, cioè io ti ho di fronte e posso dire agli ascoltatori: Matteo Caccia si imbarazza sul tweet. Quindi se io vado a vedere sul mio tweet vedo te che mi twitti e mi imbarazzo, esatto, però vabbè. Non infiliamoci in questo ginepraio, come dicevamo prima. Luca Tremolada si occupa di tecnologia, scienza e innovazione quotidianamente sul tuo blog, sul sito del Sole 24 Ore, sulla carta e sulla insomma, carta, su internet, che adesso scriviamo praticamente quotidianamente sul sito del Sole, sull'iPad, insomma su tutto. E di fatto il fatto di non essere più in onda tutti i giorni qui mi manca. Diciamo che sono entrato sotto traccia, cioè due anni fa, tra l'altro, cosa ho fatto? Mi sono messo sotto traccia, devo imparare i nuovi tag, le nuove parole d'ordine, perché poi se stai qui non impari nulla, cioè necessariamente, per cui sono andato a parlare anche con gli start-up. Infatti io ero terrorizzato oggi, perché dovete sapere che Caccia mi dice: dai, vieni in trasmissione e parliamo di come si innova l'Italia. Chiaramente io non ci ho dormito la notte, perché ho detto: che diavolo gli racconto? Ma noi facciamo narrazione, Luca, poi cerchiamo uno su cui scaricare la responsabilità, ovviamente. Esatto. La parola chiave però, mi dicevi giustamente fuori onda, che io non ho mai usato, e tutto sommato anche bene, no? Perché ne parlano tutti, bravo, è startup. Io ho capito che la parola startup stava prendendo il sopravvento quando un giorno mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto: ma che cos'è una startup? Ma infatti, allora, contiamo due cose: che cos'è la startup non lo sa nessuno, nel senso che per alcuni è una trovata pubblicitaria per riprendere le persone che non vengono assunte e dargli delle speranze. La mettiamo proprio triste. Gli startup, per chi sono? Sono gente che in questo momento non ha del lavoro, per cui che cosa si fa? Si inventa qualcosa. Startup invece che cos'è? Un pezzo gigantesco dell'economia americana. Sono le nuove imprese, gli innovatori. Cioè è un'azienda che inizia sostanzialmente, Okay. Sì, sono quattro ragazzi che partono con un'idea innovativa. Che cosa vuol dire innovativa? Per usare il linguaggio dei giovani, che spacca, cioè un'idea che prima non c'era, che cambia le regole del gioco, che cambia i vecchi sistemi. Questa è l'innovazione. E cambia la vita di chi la usa, in sostanza, che sia una cosa professionale o che dovrebbe, nel senso che poi Google a te ha cambiato la vita, sì. Come no, certo. Altre cose meno, per esempio Twitter, già un po' meno. Insomma, però per chi lo usa, Facebook ha cambiato la vita di milioni di persone, nel bene e nel male. Esatto, infatti poi noi siamo qui a giudicare. Quindi quella di Gilberto è una startup però, giusto? Assolutamente, è una delle più coraggiose, perché in questo momento innovare nella pubblica amministrazione è mestiere da eroi, perché non hanno soldi, cioè, nel senso che tra l'altro rientrano in una categoria che si chiamano startup sociali, nel senso che fanno innovazione sociale, che vuol dire che fanno fondamentalmente dei servizi che aiutano le collettività, non fanno soldi queste cose. E questo è il grande dramma: nessun capital venture andrà da lui a dargli dei soldi. Perché questa è un'altra questione. Il capital venture, mi ricordo una volta mangiando un panino, Luca mi diceva: ma in realtà i capitali ci sono, è solo che questi venture capitalist se li tengono e scelgono con molta attenzione dove metterli. Certo. E dove li mettono? Ovviamente dove fanno altri soldi, questo è chiaro. In questo caso, quindi. Stiamo dicendo a Gilberto che... Stiamo dicendo che è un eroe, che è una cosa bella, nel senso che c'è stata una grande retorica intorno alle startup. Io mi sono ripromesso di smetterla di chiamarli eroi, però sulla pubblica amministrazione sono questa cosa. Cioè sono persone che vanno avanti a spallate, perché la pubblica amministrazione la cambi così, a spallate. La pubblica amministrazione non è interessata a innovare, questa è la domanda, oppure non ha la convenienza di farlo. Sai qual è la più grande innovazione sulla pubblica amministrazione? Nel momento in cui io e te andiamo qui in strada, vediamo una buca e con qualsiasi mezzo a disposizione mandiamo una mail, diciamo c'è una buca e qualcuno lo sa e la mette a posto. Ok. Questa che è una banalità non si può fare in Italia, perché ci sono delle leggi per cui prima di certificare che tu sei tu e non sei un'altra persona devi fare 48.000 passaggi, e non si fa. Ok. È legge. Chi riesce a rendere la P PA, dico una parola internetaria che non piace a nessuno, partecipata, cioè okay, fa sì che io cittadino posso dargli del tuo e posso chiedere, dire cosa ne penso, come cambiare. A quel punto tu hai fatto la più grande rivoluzione del mondo. Però mi sembra che l'hai sentita la storia di Gilberto. Sì, loro ci stanno provando. L'intenzione è quella lì, quindi l'idea è buona. E ci sono, come diceva lui, no? delle amministrazioni comunali. 20 comuni. Quante sono 20? Siamo contenti oppure no? Sono tanti, quanto gli daranno, ma... quanti soldi gli danno per quella? Questa... E soprattutto, prima mi dicevi, è una questione di dimensione, mi chiedevi. Sì, perché esatto, lui stesso diceva, delle volte la dimostrazione delle dimensioni non contano, perché lui passa da una regione a un paesello, no? Esatto, e le dimostrazioni in realtà contano, ma soprattutto contano gli amici, altra cosa bruttissima da dire. Loro sono due ragazzi, probabilmente non costano nulla. Nel momento in cui si tratterà di portare il software, renderlo scalabile, altra parolaccia, cioè vuol dire che io voglio mettere in contatto Roma, un'amministrazione gigantesca e un piccolo paesino, sì, allora li servono occupati, servono persone, servono amicizie. E lì di solito succede qualcosa, che i piccoli restano fermi. Storia italianissima. Sì, molto. Qual è il posto migliore per innovare in Italia? La regione migliore? Ma guarda, l'ultima startup che ha vinto il premio nazionale dell'innovazione è napoletana. E ha fatto una cosa che si chiama Mangatar, e fanno dei videogiochi manga. La cosa è divertente perché tu mi guardi e mi dici, ma Tremolada gli piacciono i videogiochi, per cui è chiaro che mi parla di questa cosa qua. Invece no, loro hanno vinto il più importante premio italiano dell'innovazione, cioè quindi sono andati prima di gente che fa biotech, okay, che fa altre cose, su un gioco di carte elettronico. Okay. Napoletani, fantastici. Ma napoletani, però il premio è a livello nazionale. Il premio a livello nazionale. Invece, da un punto di vista proprio delle regioni, qual è il posto migliore in cui uno dovrebbe essere così fortunato da essere nato per poter... Dove ci sono i soldi, al nord. Il Trentino, sempre la regione autonoma. Ah no, il Trentino sono bravissimi sulla semantica, perché poi, cioè, i trentini sono super intelligenti. La semantica praticamente sono quelle cose che stanno nei computer che sanno chi sei, che c'hai la barba, quindi se c'hai la barba ti piacciono le serie televisive e ti dicono anche quali. Sono degli algoritmi, no? Ecco, loro, i più bravi stanno lì, stanno in Trentino. Senti, invece leggevo su un tuo articolo di qualche tempo fa di Innova, tu dici che comunque è meglio continuare a provare ad avviare la propria azienda piuttosto che passare di stage in stage. Stiamo parlando di ragazzi che sono appena laureati. Sì. Cioè tu sei convinto che questa cosa funzioni in questo paese? No, io sono convinto che... O parliamo di grandi ideali? Grandi ideali. Ah sì, no, vabbè, però aspetta, certo. Non parliamo... Poi ne parliamo fuori di grandi ideali, io e te. Adesso io vorrei che tu mi dicessi come diavolo si innova questo paese. E prendendo un aereo che cattivo, sì, Tremolada. No. Sembri, come si chiama, Edoardo che di Napoli diceva, Iatevin. Esatto, prendete la... No, è la risposta più facile, nel senso che di fatto in questo momento i dati dicono che un salto in Silicon Valley lo devi fare, devi andare nei mercati più liquidi, devi andare dove c'è più competizione, che sia la Cina, che sia l'India, che sia la California. Detto ma questo, per imparare o per avviare? No, per avviare, nel momento in cui ti servono soldi vai lì. Okay. Imparare qua va benissimo. Okay. Fatto sta che i grandi ragionamenti che stanno facendo in questo momento è: ma si sta avvenendo in Italia una fuga di startup invece che fuga di cervelli. Cioè noi qui le creiamo, abbiamo le talenti, le professionalità, poi però prendono e vanno. Magari tornano, quello che mi viene da dire, non stiamo a bloccarle qua a tutti i costi, magari tornano indietro e questo non sarebbe male. Infatti qualcuno scrive: l'unico modo per innovare questo paese è farsi conquistare dalla Germania. Non so se però no, la Germania no. Solare, hanno il solare, l'ambiente, le energie alternative, però tutte robe noiose, dai. Gilberto nella puntata a un certo punto dice, parla di meccanismo virtuoso che si innesca. È vero questa cosa, cioè possiamo dare la speranza a uno che dice: guarda, sto cominciando, è difficilissimo, però ne è partita una, ne parte due, mi arriva un'altra richiesta, prendo un altro cliente, questa allora, roba... Allora il meccanismo virtuoso, cioè da giornalista del Sole, la metti quando devi chiudere l'articolo, cioè quando non sai più cosa dire usi la frase meccanismo virtuoso, perché è bella, è molto da persona che ne sa, per cui bisogna creare la frase giusta, è bisogna innescare dei meccanismi virtuosi nella sì, il meccanismo poi solo, poi tradotto significa che se io faccio un social network le persone arrivano e a quel punto assumo delle persone e diventa più grosso. Questo poi è il meccanismo virtuoso. Oppure che io sto facendo un servizio per te sulla radio, sto twittando, in questo momento altre persone magari mi leggono, non ti conoscono e vengono a sentire. Questi sono i meccanismi virtuosi. In 30 secondi e poi chiudiamo, qual è la cosa più innovativa che hai visto negli ultimi giorni? Tu che ne vedi un sacco. No, io ne vedo un sacco. La cosa più innovativa che ho visto è un ingegnere che parla con un bambino. Ed era così che funzionava. Il bambino gli diceva, l'ingegnere gli ha dato una penna, una forchetta in mano, gli ha chiesto al bambino cosa vorresti che facesse questa forchetta. Il bambino gli ha detto che mi raccontasse delle ricette. E l'ingegnere l'ha realizzata. Io ringrazio Luca Tremolada per essere tornato in studio qui. Grazie Luca. Io ringrazio però anche Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Mauro Pescio. La storia di oggi era la storia di Gilberto e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Alessandro, sono di Milano. La storia di domani è la mia e parla di un motorino. Questa è la mia storia e io sono qui. We'll be right back.